Con noi Antonio Pascuzzo, direttore della prima edizione di Cantafiora. Dal 27 aprile al 1 maggio, appunto a Santa Fiora, in provincia di Grosseto. Antonio, benvenuto. Grazie, bentrovati. Ci racconti un po'? Realtà è una, come vi dicevo fuori onda, è un'edizione zero, nel senso che intanto non ci va tanto di contarle queste cose, ma più che altro ci va di raccontarla, nel senso che quello che stiamo cercando di fare è semplicemente dare visibilità a qualcosa che qui esiste già, nel senso io non sono di Cantafiora, ma ci vengo ormai da più di 20 anni e ci vengo come villeggiante, diciamo, a fare dell'ozio o a suonare. Per cui mi è capitato tante volte durante il periodo degli ultimi giorni di aprile, primi di maggio, che bussassero alla porta di casa per cantare il maggio. Quindi entravano in casa e in cambio di una merenda facevano questo. Qualche volta in casa con me ci sono stati degli ospiti tipo Mannarino, tipo Simone Cristicchi, e quindi i cantori entravano in maggioioli, come li chiamano qui, e restavano stupiti da queste presenze. Poi si cominciava a cantare insieme. Per cui abbiamo cercato con questa iniziativa di dare visibilità a questo, cioè che tu puoi entrare anche in una casa per cantare e ci trovi uno che canta, o almeno si dice che canti meglio di te, quindi partono delle sfide così un po' come quelle dell'ottava rima, delle cose che hanno alla base la convivialità, no? Nel senso il fulcro di questa iniziativa è l'umanità alla quale vorremmo aggrapparci, sì, i social come strumento, però insomma qui le persone stanno insieme, mangiano insieme, bevono e molto insieme e cantano insieme. E Sì. Sì, siccome dove senti persone cantare non ci sono persone cattive, ci piace proprio rappresentare questa parte di vita che insomma fa parte del nostro tessuto e che sarebbe bene preservare. sì. Senti Antonio, alla base di tutto comunque c'è una storia perché io conosco il coro dei minatori di Santa Fiora che ha una lunga tradizione. Sì, c'è una grande storia d'amore, nel senso che il coro dei minatori di Santa Fiora sono stati proprio, è stato proprio il primo impatto per me, no? Quando prima ti raccontavo del fatto che bussavano alla porta, i primi a bussare sono stati proprio loro. Io ho sempre fatto, insomma, questo, produttore, suonavo e quindi l'impatto con loro è stato travolgente. Da lì è iniziata appunto la collaborazione con Simone, ma anche con altri, perché poi abbiamo fatto un disco con l'Auditorium, con tanti artisti, Evia, Mannarino, la Lapidara, i Soli Più Forti, per cui è stato l'inizio di un cammino che personalmente, anche per tutti noi del coro, insomma, è stato esaltante. Ieri abbiamo ripreso, ogni tanto ci rivediamo sempre, un paio di volte al mese a fare prove, adesso abbiamo fatto in vista di questi appuntamenti, quindi riprendiamo con questa armata Brancaleone, ma di grandi cuori e di grande umanità. Cioè è chiaro che l'unica cosa che ne risente è il mio stato fisico, perché 2 giorni già qui penso che di aver superato i 4 kg in più, perché non c'è cantatina senza merenda, Eh quindi. sì, eh sì. Senti Antonio, non c'è palcoscenico, come sono organizzate le giornate? Guarda, le giornate sono, poi chi conosce Santa Fiora sa che stiamo parlando di, beh, veramente un borgo gioiello, quindi all'interno di questo borgo, grazie anche alle condizioni meteo che sono spettacolari per questo fine settimana, i borghi, le parti più, gli scorci anche più sconosciuti, spesso anche sconosciute agli abitanti, tipo domani c'è un'arpa che suonerà all'interno della cripta del convento delle Clarisse, che è uno spazio con degli scranni laterali al muro molto, puoi immaginare, suggestivo. Poi la suggestione è aumentata dal fatto che lì dentro ci sono entrate soltanto nei secoli le monache di clausura, il pubblico non ha mai avuto accesso, quindi il nostro pubblico sarà il primo ad accedere in rispettosissimo silenzio a gruppi di 15 e si atteneranno a sentire questa arpa meravigliosa di Nicol. Dopo ci saranno concerti in tutti gli scorci più belli, ci sarà l'Anfiteatro di Sant'Antonio, che è una gradinata in pietra spettacolare che sta sulle pendici di Santa Fiora, dove ci sarà lo spettacolo del Quartetto Euforia. Poi la cosa più bella è che per rappresentare proprio l'ospitalità amiatina e il fatto dell'apertura delle case, i Santafiorei si aprono la loro casa principale, cioè il portone d'ingresso del palazzo medievale, quello che dà accesso alla piazza. In questo momento ci stanno lavorando, lo stanno trasformando in una vera e propria osteria. Quindi tavoli, le sedute basse, le sedute alte, dove senza palco, appunto, come dicevi tu, in un regime di convivialità, mentre si fa merenda, si mangia e si beve, gli artisti si alterneranno e si mischieranno tra di loro e anche con i maggiaioli, con chi vuole cantare le canzoni della tradizione amiatina e maremmana. Poi la domenica c'è questo grande raduno di tutti i cori della Maremma, quindi insomma ci prepariamo a 5 giorni che possono cambiare le nostre vite, ecco. Senti, come ha funzionato con gli ospiti? C'è stata una chiamata? Si sono offerti loro? Un appello, c'è stato sostanzialmente un appello. Sì. No? O comunque fatto attraverso le chat, Messenger, WhatsApp agli artisti, dove abbiamo spiegato che cosa, perché è importante spiegare. Alcuni sono andati a trovarli, alcuni li ho incontrati in altre occasioni a suonare, e sostanzialmente è stato così. Ti dico anche che al di là del programma, quindi dei vari che hanno già aderito e sono confermati, Roy Paci, Voltarelli, Quartetti Euforia, Squivario, Simona Sciacca, Nicol, tanti insomma, ce ne sono altri che stamattina mi sono arrivati altri WhatsApp e altre cose arriveranno, quindi può darsi che ci saranno molti più artisti di quelli che sono previsti, proprio perché noi non dobbiamo né vendere dei biglietti, perché tutti i concerti sono gratuiti, né fare organizzare ad hoc qualcosa per la produzione di un concerto. Qui l'artista viene e si siede al tavolo con delle persone comuni e insieme a loro canta, suona o semplicemente assiste, insomma, quindi questo è lo spirito della manifestazione e la cosa di cui siamo molto gelosi. Ci hanno chiamato tanti altri anche per proporci il concerto, concerti non ce ne so. Senti, quali sono stati i criteri di scelta rispetto proprio agli artisti? Ma sostanzialmente unire e sentire, fondamentalmente io con molti di questi artisti ho rapporti che durano ormai da anni. Okay. E come si dice, conosco i miei polli, tutto rispetto dei polli, ma conosco le persone che possono dare un valore aggiunto. Cioè io penso che faccio un esempio, no, per tutti, chiaro che c'è uno di Roy Paci, ma Peppe Voltarelli 30 sera, cioè metterlo in un'osteria Peppe Voltarelli te la ribalta, perché proprio chitarra e voce non teme nessuno, ma è divertente proprio, ma poi viene da un paese in Calabria che è uguale a questo dal punto di vista del costume, cioè lui non lo porti fuori casa. E tutta gente che sente questa cosa appartenente alle sue tradizioni, perché siamo in Toscana, ma questa è una tradizione, quando uno sente del canto del maggio, è una tradizione rurale, la festa della primavera, che è addirittura pre-cristiana. Quindi cioè, è una cosa che, come dicevano i latini, è inherens ossibus per gli italiani, fa parte della nostra storia e la riconosciamo subito quando la vediamo. Sì. Vedo che c'è una pagina Facebook, Cantafiora. Antonio, gli altri riferimenti internet? No, nessuno. Nessuno, c'è questa pagina, perfetto. Allora, ricordiamo l'appuntamento. No, faccio uno Instagram, uguale. Ok. Edizione zero di Cantafiora dal 27 aprile al 1 maggio. Un abbraccio, un in bocca al lupo, grazie, Antonio, e ci si vede lì. E buona resistenza, buon 1 maggio a tutti.